Sentite, ascoltate questo piccolo mulatore che ti chiamo capo. Chi è avanti? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno all'ascolto, cambio. C'è qualcuno sul canale 10, cambio. Hola, c'è qualcuno in ascolto? Attenzione, canale 10. Chi è avanti? Capagaba. Tu sì. Che bella. Guarda un po', a vedere se amplifica questo microfono. Sì, amplificato. Era uno, guarda adesso. A voglia, un bel. Oh, guarda, adesso è al massimo, guarda un po', uno, due, tre. Cazzo la radio, bella, bella, va bene. E gli ho fatto la modifica a quel... quello da stampo, lo da. Ah, ci sei fatto là, ma l'MB più 4. E l'MB più 4 questo è. Ma certo non funzionava, Fabrizio. No, oh, questo è nuovo che me l'ha venduto Antonello. Quell'altro non so cosa abbia. Ah, ho capito, là, andava. Già esci bene comunque, Natali. È attaccato all'omologato, sono riuscito ad attaccarlo. Ah, l'omologato l'hai attaccato? Non ne ho altri apparati, e l'omologato è questo. Va bene, sì, bene. Sente anche la musica sotto. E perché c'è il televisore acceso, amico. Che bagaba! Adesso puoi fare che bagaba! Comunque la radio è bella, così è. Sì, sì. Sono contento. Adesso so la modifica completa, perché quello che c'ha Fabrizio ha la metà della modifica, perché ne ho trovato un'altra, che questa è completa e lo fa amplificare di più. Ah, ho capito, lo sente bene, vabbè, qua arrivi in basso. Sicuramente a casa arrivi più forte, segnale tutto, qua arrivi bassissimo. Più forte che mi arriva qua è di quelli più lontani, mi sa Gianni. Vabbè, c'è anche Franco, quello Franco Binario, anche Cosa gli va bene. Come si chiama? Gianni Bloffetta, Marco Leocondo. I più alti sono quelli, dai. Il più alto di tutti è Gianni. Sì, già lo so. Ma come mai io ti arrivo basso? Tu mi stai arrivando bene qua di segnale. Sei quasi fondo scala. Ehi, Natali, l'eccezione fa schifo sicuramente, ma in trasmissione funziona meglio, capito? Ah, così è. Dai, è su gusto. Infatti adesso devo trovare qualcuno più vicino che gli arrivo bene, così almeno. Ciao. Però se arrivo bene a te. Ma senta che concetta da lontano, vedi un po' si sta amplificando. Ma gliel'hai messa la capsula del telefono, quello, se la vuoi te la do io, me gliela metti, che ci più forte. Ce l'hai la capsula tu? A casa ce l'ho, vieni te la prendi. Non lo so, anche stasera, io verso le 5 stavo a casa, là. 5, appena ti sto partendo, ti mando un messaggio, vieni te la prendi, fa un salto un attimo e gliela piazzi. Quella del telefono Sirio. E ci sta dentro l'MB più 4. Ma stai scherzando, sono piccolini, sono una partiglietta, E allora io andare, se ce l'hai me la piazzo. Allora devi levare l'ammirino che c'ha attorno alla capsula, non so se l'hai aperto, gli metti il cotone bene bene in giro intorno, poi gli metti la capsula, vedrai che esci bene. No, il mio è così, se vuoi ti mando una foto te la faccio vedere. E anche il mio è così, quello che c'ha Fabrizio, chissà cosa gli ha preso a quel microfono. Ma nuovo è. Me. Ho detto nuovo è quel microfono. Qui era in scatola, non era neanche usato. Invece quello che ha Fabrizio, chissà cosa gli ha preso, gli fa che cosa, ma dice Fabrizio, ma lo deve controllare. E ho detto, quello che c'ha Fabrizio non è nuovo lo stesso. È nuovo. I suoi anni ha... Questo era proprio in scatola, c'ho anche la scatola, figurati. Vabbè, mi sa che un MB più 4 costa 60 euro. Lo so, costa così, costava 25 euro prima. Che bastardi. Se lo trovo uno me lo compro nuovo, però... Cioè, se lo trovo usato, massimo 30 euro me lo compro. Però deve essere in ottime condizioni. Perché mi serve... Devo fare una cosa. cappa, e vabbè. Dopo bisogna vedere se lo trovi. Antonello l'ha comprato un mese fa questo. Magari io lo so dove li prendo. Dal Fusano l'ha preso. 60 euro e vi ha fatto pagarmi. A me me l'ha lasciato 50. Allora va bene. Anche l'M93, ho attaccato l'M93. Ma praticamente stavo usando la macchina omologata dove gli hai adattato tu al microfono. E ci sei riuscito? Sì, ci siamo riusciti. Aspetta un attimo che attacco l'M93. C'ho anche l'M93 qua che mi ha regalato una persona. Aspetta che attacco l'M93. Guarda, Luca. Guarda, questo è l'M93. Ma quanto io più lungo? 1, 2, 3, guarda, 1, 2, 3, M93, test, prova, K. Sì, la taglia è meglio la più 4 comunque. Prima era più forte questo invece, prima della modifica, perché quello era normale, era appena comparato che su di Antonello. Vabbè, comunque anche l'M93 che l'avevo fatta a Roberto, gli avevo messo, gli avevo regalato, non mi ricordo, boh, vabbè. Non è importanza comunque. Gli avevo messo la capsula del microfono sempre della Sisa, esce bene. Questo bell'anno è qua, buongiorno, io. Vai, qua, ma che c'è la Cina, giovane la Cina, sì. Oh, ciao. Vabbè, rispondi a Natalino e poi ti devo chiedere un'info. Sì, capito Natalino. Praticamente gli ho messo la capsula, quella che ti devo dare se vuoi venire stasera, la sono domani mattina, ti fai un salto a casa della mamma e te la do. E gliela piazzi. Non avevi più qua, non va benissimo, perché io ho quella adesso. Dimmi l'info. Va bene, si è risolto con Natalino. Allora, io ho un problema in questo PC portatile. Come faccio a girarmi la telecamera perché mi vedono testa in giù? Dove devo andare per risolvere il problema? Lo sai che mi è successo anche a me un computer che ho sistemato. Si vedeva la testa in giù la telecamera, non ho capito. Sì, sai che qua non ti posso aiutare, se mi dici che magari la barra dell'applicazione la metti a sinistra o in alto, quello sì, so come fare. Però la telecamera ancora non ho capito, prova ad andare su YouTube a vedere, scrivi, vedo la telecamera a testa in giù nel mio notebook, più o meno una cosa del genere, e vedi un po' cosa devi fare. Boh, stamattina col culo qua nella sedia che cercando di... Perché ho pensato, ma non è che l'hanno aperto questo computer e hanno girato la telecamera al contrario, non sono sgabizzati. Però Antonio mi stava dicendo che è impossibile perché lo stato della telecamera è una serie obbligatoria. E via! No, allora Dio, no, assolutamente non si può girare la telecamera a testa in giù perché ha solo una posizione, assolutamente. Aspetta che controllo su YouTube. Sì, mi stava chiamando, buongiorno. Ciao Fanny, noi avevamo un programma di scuola. Ieri praticamente non sono riuscito a farla ruotare. Sì, è come le fotografie, quando c'è il forte, ruota a destra, ruota a sinistra, una cosa del genere. Però nella fotocamera non sono riuscito a trovare le indicazioni. E sto cercando di metterla nel mio modo possibile perché devono fare una videoconferenza, capito? Quindi ci sono tanti bambini, non è che uno che sta a testa in giù, gli altri di fianco. È una cosa per scuola. Meet, stanno utilizzando Meet. Adesso provo, va bene, mi assento un attimino. Oddio, ascoltami, vuoi andare nelle postazioni lì? Vai su pannello di controllo lì e cerca, magari lì è spostato, che sto leggendo qua in un forum là su internet, prova a andare alle postazioni e così non ti posso aiutare, dai, appena arrivo a casa così ti faccio la guida io, dai, va bene. Allora adesso provo a vedere quello che mi fece un bannino, vedo di verificare un pochino, dai. Riprendete, sono qua in VRX. Fettino. D'accordo, adesso ci provo una presa. Tino. Tino, adesso controllo a cosa, ma Carino che ha piazzato l'amplificato, fa la cortesia, che visto che tu mai lo senti meglio di me. Sì, vabbè, però vi state sovrapponendo uno con l'altro, non comprendo né uno né l'altro. Va bene, vai Natalì, prova. Guarda Tino, com'è la radio adesso? Va bene Natalì, amplificata, va bene. Ah va, grazie. Più forte di ieri, eh? Sì, perché gli ho fatto... ci ho messo le mani dentro. Bene, va bene, dai che provo questo programma, così almeno se risolvo, mi ho tolto una zecca dall'orecchio. Pagava. Sono qua ancora lì. Grazie, va bene, vai, ci provo. Attento canale 10, c'è qualcuno? Ci sono io, ti batto. Ti senti, no? No, Natalino Alfa 1 da questa parte. Ah, ciao Natalino, te l'ho riconosciuto. Dimmi un po', questa radio come va? Che ho provato, ero un 10 minuti provando facendo le valutazioni con questo microfono. Guarda un po'. Va bene, bella presente. Questa qui amplifica la radio, questa è l'MB più 4. Roberto. Natalino, una bomba, a me mi piace, infatti non te l'ho riconosciuto. Stai uscendo bene come uscivi prima con le altre radio. Dimmi un po' se l'intensità microfonica di questo è buona. Sì, buonissima. Io ho messo le mani dentro perché questo è nuovo, l'MB più 4, ed era normale, non amplificava un tubo, usciva più forte l'M93. Però gli ho messo le mani dentro stamattina presto e adesso amplifica il doppio. No, stai andando alla grande Natalia. Adesso guarda, memorizza bene questa modulazione. 1, 2, 3, prova radio. Adesso faccio la prova con l'altro microfono e mi dici cosa cambia. Allora, questa è una canale 10 27 075 la frequenza, prova radio. Questo è l'altro 1 2 3 canale 10 27 075, cosa cambia? Questa è migliore, più chiara. Ma come forza di radio che è meglio, questa o l'altra? Chi spinge di più? Questa. Ah, spinge più questa addirittura. Cavolo, l'ho abbassata quella lì. Posso sollevarla, vabbè, lì c'è un problema con l'equalizzazione, perché basta che tocchi un peluzzino. Mi stavo ascoltando in cuffia con un altro ricevitore, devo fare altre prove, dai. Ok, chi c'è su questo canale? Luca ci dovrebbe essere. Perché ci sta, vai. Capito. Questa qui è più chiara pure la radio, l'altra è un po' più brutta, amico, come radio. Questa è liscia liscia. Ok, adesso ti guardo il livello, Natali, prova a parlare, voglio vedere una cosa, il livello tuo microfonico per vedere se sei giusto. Ecco, adesso è a metà, capito, non è neanche a manetta, l'ho lasciato a metà. Se vuoi l'alzo a manetta e vedo un po'. Allora, secondo il mio indicatore puoi sollevare, facciamo delle prove solo per vedere. Andava benissimo Natali, secondo me era perfetta, però puoi salire ancora un po' di modulazione, prova a parlare, a vedere, ti dico sali. Da metà mettilo un po' più della metà. Guarda, adesso è un po' più della metà, appena appena. Prova per curiosità a manetta. Ecco, così a manetta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, c'è la manetta. Non c'è manuta, il livello non cambia niente. La modulazione non ho notato differenza, però il livello da come era prima, al massimo non è cambiato niente. Adesso... adesso è modificato, ieri era normale, imbatteva di più il coso, l'M93, invece questo è l'MB più 4, e ce l'ho anche lontano, mi sarà un metro. Avvicinati, non si fa vedere di quello 60, buongiorno. Ciao, guarda un po', adesso sono più vicino. Allora, avvicinati, 20-30 centimetri, Natalì, cosa un metro, che disperde troppo, è bellissima la modulazione, finalmente ti sento come Cristiani. 20-30 centimetri, non di più, normale. Adesso lo metto alla metà, guarda un po', adesso è a metà, guarda. Andando bene Natalì, va benissimo, è bella chiara, pulita, nessun disturbo. L'unico disturbo che c'è è Concetta che ci intende i denti. La modifica, quello che c'ha coso Fabrizio, è la metà. Adesso questo ce l'ha tutta la modifica, che l'ho scoperta su internet e me l'ho fatta stamattina. Ma l'unico problema che tu hai di disturbo, lo sai, è Concetta, di abbassare i voci. Addirittura anche lì si sente. Si sente telefonando a tutta andata. Va bene, dai. Io, Robè, devo rifare delle prove dopo, adesso devo attaccare l'80 di nuovo. L'80 e lo devo usare, lo regolo, è sicuramente più alta di questa la modulazione, però lo devo usare. Claudio, ma tu c'hai la tua palla esterna per ascoltare? Io sì, c'ho tutta la linea del 440, perché? Fammi la prova, allora adesso memorizza questa modulazione, ci ho fatto delle regolazioni poco fa con l'altro microfono, mi stavo ascoltando, però poi alla fine mi sono fraccato di regolare. Questo è il solito, il 60, 1, 2, 3, prova radio, adesso ti attacco l'altro e mi dici cosa cambia. Guarda il livello soprattutto, mi interessa il microfono. Vai, vai. Questa è l'altra, 1, 2, 3, prova radio, questo è un altro microfono con regolazioni diverse, con le differenze a notte. Questa c'ha più acuti e rimane più cupa, l'altra è più bella, più presente. Più cupa è questa, quindi posso ancora un po' sollevare, guarda un pochettino, 1, 2, 3, prova canale 10, 27, 0, 7, 5. Diciamo si assomiglia all'altra, però l'altra c'ha più tonalità medio-bassi e gli acuti più concentrati sulla voce, questa è un po' dispersa la modulazione. Dimmi una cosa, il livello microfonico è più alto o più basso dell'altro? No, è più alto questo. Aspetta che abbasso un pochettino, quindi c'è meno medio bassi adesso. Sì, sì, sì, sì. Guarda un po' adesso, 1, 2, 3, prova radio. E adesso uguale all'altra, con le tonalità giuste, medio bassi, centrati, medio alti, uguale, però l'amplificazione è più alta. Se la vuoi più alta, questo è più alto dell'altro. E questo è il minimo che posso sollevare, dai, più o meno come l'altra, quindi come livello. Allora, aspetta, passiamo un peluzzino, guarda se è successo qualcosa, 1, 2, 3, prova radio. No, no, va bene, è uguale all'altra adesso, lasciala così. No, io quella devo attaccare l'80 adesso col 430, voglio usare un po' il 430 perché il 50 era lì e l'ho spostato sul DAC, adesso metto l'80 e devo usarlo. Sarà una modulazione molto molto alta, ma comunque cerchiamo di abbassarla un pelino. Ma questo cos'è, il 44? Sì, questo è il 440 con l'MC60. E vuoi provare il 430 con l'MC80, così? Sì, sì, sì, l'MC80 col 430. E fammelo sentire, dopo vediamo un po', dai. Ehi, un bel forte, mi sono già sentito ieri notte, è un bel forte, vabbè, comunque farò una regolazione un pochino intermedia tra il 440, tra questa e quella là, dai. Va bene, Bianco, per me ci sentiamo dopo. Natalì, stai uscendo splendidamente bene, capito? Sta la capsula sua normale. Va bene, lasciale, sfossa lì, togli, metti appena appena di cottone, togli quelle rettine, lasciane una, cerca di far sì che la modulazione non sia cupa, perché non è cupa, è bella, chiara. Se riesci a dare un po' più di amplificazione, per me va anche bene, però se la lasci così non dispiace. Non lo lascio così, dai. Almeno puoi parlare tranquillamente senza, e ti sentono tutti. E puoi alzare pure la voce, puoi sollevarla la voce. Lo so. E non ti allontanare, 20 centimetri bastano da quel microfono, ok? Ci sentiamo dopo, ragazzi. Ehi, ciao Cla. C'è qualche grado sul 10 qua? Ora, avanti 10, c'è qualcuno? E non c'è nessuno. Lo sai dov'è mia moglie? In cucina, dentro in cucina, che sta telefonando con non so chi. Capito? È lontanissima, eppure si sente, boh. Sì, un po' si sente. Dimmi un po', ma a che distanza stai parlando, Natalia, dal microfono? Adesso saranno una trentina di centimetri, da. Dimmi una cosa, e tu regolando da metà in poi non sale il livello, strano però. Vuol dire che il massimo è quello. Ho il potenziometro che vuole cambiato, ma lo lascio così, dai, va bene, lo lascio a metà. Allora, secondo me quell'amplificatore, quel baracchino c'ha un limitatore di coso, di ingresso microfonico, in modo che se entro i parametri nel circuitino c'è qualche limitatore che ti blocca anche più sali, a un certo punto si blocca in automatico, ci avrà qualche compressore di coso, di dinamica. Evidentemente sì, già è un macello adattarlo. Figurati, non amplificava, quando era normale questo qui non amplificava nulla, usciva più forte L-93. Se vuoi te l'attacco e te lo faccio sentire. Fai una prova, Natalia, al contrario, voglio vedere se il potenziometro funziona. Tu adesso sei a metà, confermi? Sì, adesso sì che sono a metà. Prova a scendere, la metà lo metti a metà della metà, vediamo se il potenziometro funziona, perché può essere anche il potenziometro che l'hai escluso tu. Guarda un po', adesso è a metà della metà. Allora fai il passaggio, mi dici questa è a metà e questa è a metà della metà. Allora questa è metà della metà, adesso lo alzo alla metà, guarda un po'. Vabbè, scusa, ero distratto, non ho visto l'indicatore, fammi la prova prima a metà della metà, poi parla, parlando mi dici adesso ho sollevato, fa un passaggio un po' più lungo così memorizzo i decibel, vai. Guarda un po', adesso è metà della metà, adesso lo alzo, guarda, così è alla metà come ero poco fa. 2 dB guadagna di coso, di, pensavo di più. Mettilo quasi a 0 per curiosità. Guarda, adesso è a 1. Adesso fammi il passaggio da 1 al massimo, così vediamo quando, al massimo, cioè sulla metà voglio dire. Dalla posizione minima, mi dici questa è posizione 1, quella sempre alla stessa distanza e poi mettilo a metà, vediamo cosa amplifica con la roba. Allora, questa è la a 1. Adesso lo alzo, guarda. Adesso, ecco qua, adesso sono alla metà, guarda un po'. Diciamo Natali, secondo me quel potenziometro non è che amplifichi più di tanto, probabilmente il coso che hai fatto, le modifiche, non è che ti cambi più di tanto, 2 dB guadagni, dal minimo al massimo guadagni 2 dB di coso, di intensità, comunque già va bene. Probabilmente come cosa hai fatto punticello sul potenziometro, cosa hai toccato? Due punticelli ho dovuto fare. Va bene comunque Natali, mi chiedi conferma, c'è Franco, avanti Franco per Natalino, come l'ascolti? Black! Che avanti? Black! Registrato avanti! Black! Black! Allora aspettate un attimino, avete fatto 3 break in contemporanea, ok, avanti prima chi era Franco e poi faremo girare gli altri, avanti Franco, nulla, avanti l'altro break, chi era? Ciao Robert Lucas, mi senti? Robert Lucas, mi senti? Cacchio, parlate uno sopra l'altro. Allora Luca, ciao, mi hai sentito, c'è l'altro break, avanti che è l'altro. Ah, ciao Angelino, benissimo, ti ascolto, molto forte, sembravi qua vicino. Poi c'è un'altra ancora, chi è l'altro? Avete fatto 3 break mai visto in contemporanea, Angelino, Luca è Alfa 21, dai. Ok, in compagnia mia, di Natalino, di Franco, avanti Franco, che l'ho rilanciato però non ha risposto, avanti Franco. Break, è quasi il quarto. Hai registrato. Arriva il break, c'è qualcuno in occhi, Vabbè, Franco non ha ripreso, ciao Tino, riprendi Luca e farai girare per Tino. Ok, riprendi Tino, fa girare per Roberto, poi c'è Claudio, cosa vuol dire a Claudio se mi ascolta? Come arriva Roberto più forte di te? Vabbè, questione di pizza. Vai, ti riprendi tu, fa girare Roberto, vai. Vabbè, ciao a tutti, dai, è entrato Angelino Dalghero, mi è parso, poi Riccardino, Roberto, dai, fai entrare qualcuno di tua preferenza, dai. Ok, facciamo andare prima più lontano da Angelino, avanti Angelino, buona giornata, buona domenica, avanti Angelino e poi farei passare a Riccardino se ti ascolta, avanti. Riccardo, hai sentito Angelina? Sì, l'ho sentito. Ok, Tino, una domanda, questo è un altro microfono, tu che sei più lontano. Come mi ascolti? Benissimo, vabbè, benissimo. Angelina, un controllo, non è per cortesia, lei davvero? Lo so. Ecco qua, vado a vedere se ha cambiato Angelino. Vabbè, non riesco a trovare una... Aspetta, forse perché... Provo a vedere se ha cambiato ora. C'è un po' di alternata comunque Tino che non avevi ieri stranamente. No, sono dentro di PC, no, roba di alternata. Le sento anche io. No, ma non riesco a riportarlo come la prima. Prova a passargli appena appena il pilotaggio, Tino. Sì, il pilotaggio è tutto a zero, tutto a zero. Vabbè, c'è un po' di rovolino. Posso magari col carrier leggermente, guarda un po' se ha migliorato. Perché questa è una roba millimetrica. Ma una domanda, è quello di ieri, quello, tutto quello che avevi ieri poi? Sì, sì. E non hai toccato l'amplificazione di niente, di parliamo microfoni? No, no, il mic è rimasto sempre lo stesso, ma infatti devo dire, guarda, adesso cambia, solo se io aumento 1, 2, 3, 1, 2, 3, guarda se sta migliorando, così ci sono 10 watt modulati. La radio è forte, è chiara, però c'è un leggerissimo strappamento, leggermente, ma proprio poco a poco, dai, va bene comunque, diciamo non è eccellente, ma è più che buona la radio. Ok, vediamo chi c'era poi, io ho rilanciato poco fa Franco, ha chiesto il passaggio, il break, però non ha risposto, vediamo se c'è ancora, se no riprende Natalino. Io se posso intervenire, sono in QRX, a differenza di te, Robert, lo sento Saturino. Sì, ma infatti è quello, claro. Io sto abbassando adesso i watt, giusto per prendermi conto un pochino se sta rendendo o meno, perché da cane l'ho messo in funzione, ecco. Infatti No, si è attaccato al 450, a me non piace così, te lo sto dicendo. Non hai incremento quasi zero, sei 9 più 20, picchi in modulazione sono fissi, a 9 più 20 e la radio non mi piace, Tino, è troppo compressa. Non c'è potenza di radio, ti mangia la radio. Beh, è così che senta, ma infatti voglio dire, non so, questo è normale, normale. Prenda la radio, Tino. Scusa Roberto, poi intervieni tu, un secondo solo, fammi finire, un minuto. Allora, tu immaginati che è agganciato, a me mi arrivi 9 più 20 fisso con la radio che non mi piace. Sganciato, sei 9,15 a picchi a 9,20, quindi stesso segnale, con la radio che va bene, quindi a cosa serve? A nulla, ma infatti è quello che voglio capire dalla volta scorsa, perché a volte va bene, a volte va male, non lo so, qualcosa l'ho toccato anche io. Il carrier poi è rimasto invariato, fra. Ok, siccome tu lo sai, io conosco bene quella radio, abbiamo fatto tante prove assieme, forse Roberto era ancora non era attivo, e ti dico che non serve a niente agganciare quell'amplificatore a quella radio, lascia l'agganciata all'altra radio, fai qualche altra cosa, ma lì non serve a niente, perché incremento è vero molto molto poco, e ti disturba la radio, ti satura la radio, è brutta, non serve a niente, non nulla, Tino, dammi retta. Sì, no, beh, aspetta, se no facciamo un QTC 38, vai, la mattina. 38? 38, scusate. Ok, facciamo riprendere a cosa, a Luca. Non c'è più, io ho chiamato poco fa Franco, se non risponde Franco riprendi tu Natalino. Non c'è Natalino, vai Riccardo. C'è Angelino D'Alghero, Claudio, Luca, c'era Natalino, c'era Tino, c'era Franco che non ho più sentito e basta. Tu di giorno c'è un segnale diverso, Riccardo, la notte secondo me c'è qualche cosa sul capo, perdi molto segnale, così se gli do più di 9 come segnale, se no qualcosa si scende a 9 con la notte, non ho capito per quale motivo, forse l'umidità, c'è qualche spezzone che non funziona bene, l'antenna si bagna il PL, Ok, prendiamo il mic con Angelino, avanti Angelino. Thank you. cosa strana che ieri c'era la stessa radio, abbiamo provato ieri notte, il segnale saliva tanto e la modulazione non cambiava, era perfetta, anzi gli ho detto addirittura per certi versi sembrava meglio quando era attaccato, più corposo, invece oggi è il contrario, di poco ma non di molto, diciamo sono cose impercettibili, l'avrebbero voluto a molti la radio anche se era leggermente gracchiolina, però andava abbastanza bene, però ieri era meglio devo dire. Ok, Natalie ci sei? Sì. Sentiamo Natalie, fai un collegamento con Alghero se ti ascolta, l'hai sentito Angelino la cosa Natalie? Hai sentito Natalia? No, non ascolto io Angelino, però la colpa è mia, ho l'antenna bassa, ti ho detto Roberto. No, ti ascolta, Santiago di 3, radio di 3, bassino, però riesci a tirarti fuori, dai, ti riesci a capire quello che dici. Va bene, dai, poi piano piano già si sistemano le cose, già la radio ha migliorato tanto Natalino perché è un po' più amplificata. Ok, vediamo un po' se c'è qualcuno nel frattempo che vuole rientrare. Avanti Luca, se no faremo girare il percorso per Riccardo. Avanti Luca. Dopo fa si sono parlati tre break in contemporanea, mai è successo. Uno sopra l'altro, adesso invece non c'è più nessuno. Vai Riccardo, dai. Franco. Ah, quindi c'aveva ragione lui che l'aveva venduto a tuo babbo, col fuoristrada, va bene, ok, conosce va bene la zona, mi ha detto, perché lui fa delle essere manutenzioni di lì dove c'è la ferrovia, cosa. Ok, cosa volevo dire? Angelino, differente, le vuoi fare un confronto a lunga distanza con questa radio, 1, 2, 3, prova microfono, e adesso ti attacco l'altro microfono e mi dai un rapporto. E questo è il solito, 1, 2, 3, prova radio. Qualcuno? Avanti Luca. Vediamo un po', Riccardino, mi senti? Diciamo che questa antenna va in ricezione, ha problemi, magari in trasmissione, roba da te quanto arrivo, 9 sempre. No, 9 più 10 sei Luca. Senti, sei 9. La radio è buona, sì. Ottima, come detto da sempre, bellissima questa radio. Non lo so, se è un problema di ricezione, ma tu sei 9, arrivi benissimo lo stesso. Riccardino è segnale 1, molte volte mi arriva 2, molte volte mi arriva 5, 3. Angeli, quindi questo è leggermente peggio di quello di prima. Questo è quello che utilizzo sempre, continuamente, questo è un 60. E questo è un altro, abbiamo fatto delle regolazioni, prima le ho fatte un po' io in cuffia e poi Claudio mi ha dato degli altri parametri, abbiamo fatto delle prove. Questo è un Adonis 908. Figurati, poco fa ho toccato di, cosa ti posso dire, di 3 dB l'equalizzazione di questo apparecchio, i 270 Hz li ho toccato, di 3 dB li ho appena esaltati, prima era cuffa, poi l'ho toccata di 3 dB perché tra l'altro mi ha detto sollevo appena, ho toccato addirittura supera il 60, guai se ti metti a guardarli con analizzatore di spettro e coso, a vedere cosa riesci a fare, c'ha una sensibilità questo equalizzatore, basta lo tocchi di un peluzzino e cambia totalmente la modulazione. Ma sono visto buono di importante, aspetta che ha parlato anche Luca. Vai Luca, cosa è? C'è portante qua. Come trovo portante a te, Robert? A me? Ma tu c'è la ciappa lì. E poi, se vuoi dire che non sia altro. Io non sento nessuno qua, non, magari vai vicino a te probabilmente, io non la sento, non copre a nessuno, tu lo passi Angelino, lo ascolti Angelino Luca? No, quella qua no, non so se mi ascolta lui, Angelino mi ascolti, cambio! Angelo, l'hai sentito? Ok, mette Riccardino, lo ascolti, piccolino, o niente. E vabbè, già si metterà una 58, adesso sta cercando di antenna. Ok, vediamo un po', Natalino, riprendita. Sono al telefono, là. Ok, vediamo se nel frattempo è entrato qualcuno, avanti sul 10 si vuole rientrare. Non c'è nessuno, dai. C'era entrato un attimino Franco, ha fatto un'osservazione e poi l'ho rilanciato, che strano. Mi sembrava lui, almeno il segnale, la voce sembrava lui. Ok, vediamo se Tino è rientrato. Non ho sentito né a Massimiliano né a Doppio Rum oggi, forse sono ancora a riposo. Poi, scusa se riprendo io il mic, come si chiama? Quello di Alghero, Roberto, dove trasmette Angelino? Molto più forte di lui, infatti volevo capire quello, ho capito si trova a Pietraio, naturalmente non si dicono le vie, ci mancherebbe, ma è un radioamatore quello, o sbaglio? Anche lui adesso deve fare provare un'altra radio, la deve far girare anche quella, sta facendo delle prove con un 80, infatti lo voglio sentire, sono curioso anche io di sentirlo con un MC80. Bene, sei oltre 9 di segnale, ti ascolto perfettamente, come sempre. E ho visto la modifica proprio ieri per la banda, la 5 o la 1? Allora, i radiali della 1 e della 5 sono tutti e due uguali, per cui non cambia niente, perché qualcuno ha detto che erano diversi, sono la 1 ne ha 4 e la 5 ne ha 5, sono identici intercambiabili. C'è una modifica per aumentare qualcosa come ricezione, proprio ieri lo stavo leggendo da QRZ, adesso mi ricordo QR K, adesso mi ricordo Roger K, aumentando la lunghezza dei radiali, anziché farli da 1,60, portandoli a 2,50 m, c'è un leggero miglioramento di ricezione. perché i radiali sono da 1,60 m e sono caricati, c'è un cavo spiralato all'interno della vetroresina per arrivare alla lunghezza d'onda del, di coso, di trasmissione. E qualcuno per eliminare quel problema lì ci mette il coso in alluminio e poi magari ci metti dei tirantini in lenza, di quella lenza per pescare un po' grossa, in modo che se si appoggia la cornacchia sopra riesce un po' a attenuare le oscillazioni. Oppure c'è un'altra modifica, però quella non so dove trovarla, è una specie, sono due anelli da sovrapporre intorno ai radiali circolari, diciamo due anelli sovrapponibili che legano i radiali uno con l'altro, li rendono diciamo compatti uno con l'altro, in modo che quando ci sbatte sopra scarica la forza anche sopra il coso, e sono due anelli che si mettono tutto intorno al coso, ai radialini. Tramite Claudio, o me lo faccio dare io il tuo, lui gli do il tuo, cioè di darglielo a te per messaggio, non c'è problema. Ok, avanti, chi tocca? Vediamo se è rientrato Tino un attimino o poi Natalino. Tino non è rientrato, Natalino riprendi, te la che farà girare a Riccardo. Riccardo, come mi ascolti? Però sono permesso, sono tornato. Vabbè, si è abbassato il segnale ed è incomprensibile qua. Adesso ti ho sentito. Come mi ascolti di radio, Riccardì? Roberto, riprendi tu, dai. Catarino, che è avanti adesso, se mi senti. Ma ti sento. Ma mi senti adesso? Adesso il segnale è tornato quello di prima. Stamattina è ribasso. Buongiorno. Buongiorno anche a lei. California da questa, buongiorno a tutti, non so che ci sia questo canale. C'era Roberto, Riccardino e Luca. Ok, dai, saluto tutti cordialmente. Solo che l'altro lì è tornato alla norma. Cosa? Adesso è tornato come prima il segnale. E adesso sì. Che è avanti? Capa di positivo, vuol dire che già spinge questa radiolina. Cappa di positivo. Vai, stupido. Ciao Massimiliano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao, chi è? Non ho copiato chi sei. Ciao, buongiorno, ciao a te, buonanotte. Ciao ragazzi. Similia. Sì, allora, Angelino, ciao, Franco e Natalino, ho sentito, vai Natalino. Guarda, com'è la radio, questo è l'MB più 4. Ottima per la truppa, Natalino, Santiago Novo, Radio 5. Bagava, gli ho messo le mani dentro a questo MB più 4 perché non amplificava nulla. Adesso a manetta è l'amplificazione. A metà è. Aumenta ancora, Natalino, aumenta. Vai a manetta, guarda un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lascia la manetta. Gaba gaba. Gaba gaba. Allora da metà al massimo non amplificato molto molto, ma lì secondo me è anche la capsula quella originale che non va, quindi bisognerebbe cambiare anche la capsula. Comunque va. Meglio di prima sicuramente, molto meglio. Angeli, com'è il rapporto mio lì da te? Massimiliano. Ciao Lugarier, buongiorno, sì anche tu sei 7, 7 con picchi positivi il Radio Super 5, non so se si è aiutato. Ha preso, no? Va bene, vai Lugarier. Ciao, vabbè Massimiliano, mi ascolti, sì. Santiago Novo, Radio 5, perfetto. Se l'ascolto, Fra, cosa hai fatto? Ovunque. non c'è la radio. Non ho capito. Ma basta che te ne scenda a casa, mi ci fa scendere tutti, no? Sempre uguale, ma tu va tenuta. Che sera. Senti, quando ti sto arrivando lì da te? 9.5, sì, radio a Crebaldura. Buono, buono, va bene così, ottimo. Ma infatti non lo tocco adesso. Beh, sei arrivato anche a Valghero, cazzo, con un antennino da nuda. Cioè, un antennino da niente, la sto preparando, devo bussare i radiali. Beh, certo, c'è un'altra cosa, Vabbè, 5-7, sì, comunque, qua. Massimiliano, tu sei 9-15, quasi. Tu sei 9-5, a voglia. Va bene, ultima modulazione. Andiamo a vedere, avanti Natali. Ha visto là? Anche lui arriva a Sassari con l'antennino della mutua. Visto dai. Ma dice ti sente anche Angelino adesso, così Angelino. No, il problema è che lui l'antenna buona ce l'ha, è che è troppo bassa, capito? È troppo bassa e vorrebbe sollevata ancora qualche metro. Lui vabbè in una posizione un po' particolare e anzi pure dopo sta uscendo anche troppo bene per come è messa l'antenna. Lì abita un collega là, che lavora con me in quelle zone tue là, diciamo. Io diciamo che sono non proprio algherese, ma comunque mia mamma era di Alghero, tutti i parenti sono di Alghero, abbiamo la casa lì nella strada di Calabona. Ciao Roberto, buongiorno e buona domenica a te, vai Massimiliano qua a Coordinate Sassari, in compagnia di un pugno di amici, dai, c'è Luca che è un po' in condizioni precarie e poi ci abbiamo Franco, dai, ti rilancio Franco che poi farà girare, vai Fra, lo senti Roberto, sta facendo il caffè, Natalino lo senti Roberto? No, negativo, mi dispiace, ma già lo sai, la guida era mia, ti faccio l'antenna bassa. Abbasciare la televisione Natalì. Luca, lo senti Roberto? Lo sai che qua Massimiliano, sento solo voi, quelli di Sassari, dai, manco Angelino lo sento, nulla, salutamelo, comunque non lo sento. Ok Robè, dai, non ti sente né Luca né Natalino che comunque ti salutano cordialmente, eh. Avanti ancora per te. Stasera, ciao Lucia, ciao Natali, buon pranzo, buon tutto. se mi ascolta. E c'è la riascolta le prossimine. Chi è che sta chiuso? Natalino e Lucariello mi fa. Andate a mangiare, corretto, muori a mezzogiorno e un quarto, su. Grazie orario di Pilari, Bruppio. Ciao Luca, ciao Natalino. Mi sembra benissimo Massimiliano, stavo chiamando, non mi rispondete. No, stavo chiamando perché mi sono allontanato un secondo, QTH piccolo, capito? La spinta era troppa. Ciao Massimiliano, ciao Fra. Io me ne passo in quel Rix che devo cucinare, capito? Ma diciamo che il sugo l'ho già fatto, poi ho fatto gli osobuchi già pronti. Bisogna mettere l'acqua, dai, io voglio verso mezzogiorno e mezza, l'una meno un quarto, massimo l'una. Diciamo è quasi pronto, dai. Abbassate le voci tutti quanti, buongiorno. Va bene, allora dai, Natalia, ci sentiamo dopo, buona carichetta. Ciao a Lubrafetta che è entrato adesso. Ok Lura, ci sentiamo dopo. Rilancio più lontani, quindi dai, io rilancio Roberto che poi farà girare lui. Vai Roberto. Roberto non risponde. Gianni, come mi stai ascoltando di radio? Che ho messo mano a questo maybe più qua. Aspetta, Natalia, che stavo parlando. Lubrafetta passa a 12. Quanto ti sei abbassato? Angelini, ti tiro fuori ancora, però ti sei abbassato parecchio, va bene, no, non mi risciugli proprio. Ok, ciao Angelini, saluto anche Roberto, saluto Franco, anche io passo in quel Rix, vediamo di fare qualcosa, dai. Franco, mi raccomando, la mattina svegliatemi. Scappa, scappa, non c'è problema, sì, va bene, dai, chiudo. Che devo sistemare quelle cosette qua, anche io, dai, sono entrato a salutare. Ciao a tutti e ce la riascolto, anche a tutti che ce la riascolto. Ciao ciao. Vai, metti l'acqua a bollire anche tu, cammino. No, veramente mi sto facendo l'agnello nel forno, capito? Ascolta, guarda se c'è il posto del blocco che arrivo. Seria. Oh, vabbè, qua ci sono sempre. Io lo so, ci sono sempre. Ma comunque anche per domani ancora, non è che si può uscire come vogliamo, eh. Ma infatti, stavo leggendo Gianni. Le situazioni, sempre a parito. Dove ci spostiamo in mascherina quando si entra nei luoghi pubblici, capito, tutte queste cose qua, quindi non è che abbia cambiato più di tanto. E infatti vabbè, l'unica cosa che abbiamo in più che possiamo andare a trovare i nonni, là, i parenti. Beh, quello sì, Gappa gappa, andrà bene bene, dai. Luca, ci sei ancora? Sì, mi sono spostato un attimo per QTC per Gianni, dai, e non lo sento più, stavo chiamando ma non mi risponde. Eccomi, no, non mi ero accorto che c'era gente sul 12. Vabbè, niente, per quanto riguarda il 3009, bellino, non costa manco molto per il UBCA, oltre i 230 euro, uguale, identico. Quello costa 100, con 180 euro te lo porti a casa. Ma il 3009 è quello che c'ha Marcolino? Eia, aspetta, ti dico qual è, 3009 Superstar, original, mi hai chiamato la foto, aspetta. 189 euro costa l'uovo. No, questo qua costa 180 euro spedito. E dove? Mandami il link. Comunque, adesso non so chi c'è in ruota, salutoni a tutti, dai. Salutoni a tutti, che ne sono 11.40. Ciao Massimo, mi è sembrato di sentire Natalino. Sì, Natalino, ti sento molto, molto bene, dai, la radio va benissimo rispetto a come di prima, comunque. Netto miglioramento, raga, tutto così e puntello a tutto quanto. Fatto, ci ho messo l'attac. Bene meda. Ciao già. Buongiorno, ben ascoltato. Gappa gappa. Sì. E beh, tu invece quella questione là non hai fatto niente ancora già. No, ho messo in stand by Massimiliano. Ho messo in stand by perché ho... Devo sistemarmi il portatile, il computer, devo fare una modifica, per cui tra le due cose sto dando priorità al computer, quindi per adesso in stand by, dai, già c'è l'antenna. va bene, era giusto per andare bene, vera. Va benissimo, ok. Chi c'è rimasto? Massimiliano, ancora sei disturbo? Ciao Giulio, buongiorno. Ciao Gianni, no, volevo sentire Massimiliano, perché stavo facendo delle prove con Rose, metto nei vari canali, dai. Fammi mi sono allontanato tanto, non vorrei disturbare ancora a Massimiliano, perché poc'anzi non sentivo nessuno, cioè sono passato direttamente sul 9 e mi sono messo a fare le prove e poi invece Massimiliano aveva dei disturbi e giustamente ha fatto bene a dirmelo. No, Massimiliano, ci sei? Sì, Giulio, sono qua. Ero sul 25, ancora mi sentivi? No, ma basta che tu non... Allora, se ti sento, sono nel canale adiacente, cioè ho 9 o 11, già nell'8 non mi stavi disturbando più, però il problema è che stava parlando Angelino dal Ghero, no, che arriva un po' più bassino, e quindi tu stavi facendo le prove nel 9 e lo disturbavi, capito? Tutto qua. Ma non è che sia successo niente, ecco. Sì, no, ma hai fatto bene l'esame, perché stavo facendo da 1, partivo 9, poi partivo 20 e poi 40, però mi sono fermato a 25 e andava bene lo stesso, solo quello, Massimiliano. Hai fatto bene a dirmelo, ci mancherebbe. No, perché io non sentivo nessuno, capito? Cioè, anche perché avevo da ieri la radio a 9, no? 9 era e 9 mi sono fermato, poi sono passato ad 1, poi sono passato a 25, poi a 40. Tutto lì, Massimiliano. Io non c'è problema, dai. Va bene, comunque c'è il profeta, o l'ubrefetta, come ti vuoi chiamare tu, è uguale. Luca, non so se c'è ancora Franco Califfo, Natalino. Natalino, ho sistemato un po' la radio, vedi un po' se lo ascolti meglio. Vai Natalino, non riprende, vai Luca. Prego. Sì, un secondo. Oh, Lu, però questo che mi hai mandato tu, questo link del Superstar, attenzione che è un 40 canali, non è, non c'ha banda, non c'ha nulla. Allora Massimiliano, quello è omologato, 40 canali, però si può fare. C'ha il coso, non so come si chiama il nome, come il computer, dai. Lo di Ponticellare, comunque saluto anche a Giulio, che non so un po' chi era entrato, Ponticellare e c'hai 240 canali, Massimiliano. Ah, ok, là, va bene. È ottimo per la truppa, il prezzo è buono. 176 te lo porti a casa, no? Va bene, avanti Robè. Sì, sono rientrato poco fa, mi sono assentato per la telefonata, ho sentito a te Massimiliano, Giulio, poco fa c'era Luca, che l'ho sentito adesso, poi c'era Nattarino, c'era Alfa 21, poi chi c'era? Ne è rimasto qualche altro. Vai Giulio, confermami chi è rimasto. Sì, sono qua, ciao Robè, ciao Luca, ciao Toni, ma mi sembra che non sia rimasto nessun altro. Confermi Massimiliano, c'è nessun altro? Mi sa di no. Io ho rilanciato anche a Franco, non riprende, sicuramente stava girando l'agnello, c'era Brugendi. Poi non so se allora c'era Coso, Angelino è entrato in quel Rix, poi c'è Roberto Ialghero, non so se vuole riprendere, Roberto ci sia ancora, niente, non vuole riprendere, quindi Angelino in quel Rix, Luca, c'era Natalino che è entrato per un secondo e l'ubrefetta, vai per l'ubrefetta. Buongiorno a todos di nuovo, dai. Buongiorno a tutta la ruota. E niente. Sì, Angelino e Roberto non li ho più sentiti. Riccardino, idem, compattate. E niente, dai, siamo qua. Questa è una radio nuova. Ciao Gianni, ben sentito. Questa è una radio, un microfono nuovo. Come mi ascoltate? Con le orecchie. Pulite sono. Col pelo. Va bene, dai. Buona. Però questa non è un 60. Già, lo so che non è un 60. Qualcuno mi ha detto che è meglio dell'altro. Guarda, chi mi ha fatto la prova? Angelino ad Alghero dice che mi ascoltava meglio. Memorizzate questa modulazione, 1, 2, 3, prova, canale 10, 27, 0, 75. Adesso vi attacco al volo l'altra. Attacca al volo. E questa è l'altra, 1, 2, 3, prova radio, 27, 0, 75. Questa è più bella. Allora, non vedi che sono questioni di gusti. L'altro diceva che era più bella l'altra. Ognuno ha i gusti propri. Questa è 60, l'altra è un Adonis. Naturalmente vuole regolato sempre con qualche strumentazione, perché è stato regolato a orecchio. Questa è meno forte però dell'altra, confermi? Questa rimane più corposa, poi non so se sbaglio, aspetta che gli orecchie pelose ce n'è anche un brefetta, non ridere. Sì, è meglio questa. Ma mi ascoltate con l'altopalante esterno o con l'altopalante del baracchino? Io ce li ho tutte e due, sia uno esterno e uno del baracchino, ho provato sia uno che l'altro e vanno benissimo, tutte e due, sia la radio sia la anche l'altro non è male, attenzione, è bello anche l'altro. L'altro rimane leggermente più chiara. Confermi, Giulio. Non ridere. Ti sei presa da Gordoscio. vabbè. No, ma sono buoni tutti e due, dai. Comunque la morte sua per me, per conto mio, è l'MC60. Per quello suppongo che sia migliore o robe, poi vedi tu, per me va bene anche l'altra, però quello mi sembra un pochino migliore. Avanti l'amico della risata. E rivendi a chi sicuramente vi la memorizza, dove è, compresa. Dice va che va bene adesso, va a capo di bugnette, non sei altro. Buongiorno. Va bene, non va bene, non so. Vabbè, io sto usando l'MC80 adesso col 440. Forse è troppo forte, non lo so. Ma sto usando il DAC. No, questo è l'MC80. 80 col 440, registrato il break, perché non va bene? No, sì, va benissimo. È buona, molto forte, è bella. No, questa volta stavo usando il DAC, quello l'80. No. Quello l'ho usato ieri notte. Adesso è l'80 con le Macon 440. Ciao Giulio, buongiorno a tutti comunque. No, l'avevo detto a Roberto quello fa che l'agganciavo per fare vedere la differenza tra il 60 e l'80, che io non le noto, sono in cuffie. Noto solo una fortissima amplificazione e basta. Avanti break, buongiorno.